qualche difficoltà per metterci in contatto con l'Ateneo Romano di Tor Vergata, dove sembra sia stato occupato il rettorato. Vedremo di rimediare al più presto. Intanto però noi ci trasferiamo a Napoli, dove già le facoltà sono occupate da un paio di giorni. Si è svolta un'assemblea, sono state prese delle decisioni importanti. Ci le dice al telefono un compagno. Ciao. Ci siamo, ciao, un saluto a tutti. Innanzitutto stiamo contattando la facoltà di lettere e filosofia, occupata già da 2 giorni e mezzo. Ieri c'è stata un'assemblea di facoltà dove gli studenti hanno deciso di continuare a portare avanti l'occupazione nonostante alla Camera sia passato il DDL sulla Gelmini, e in questo momento gli studenti sono andati a bloccare i corsi delle facoltà qui attorno alla facoltà di lettere, sempre appartenenti all'Ateneo della Federico II, per far confluire gli studenti in questo momento qui e rilanciare la lotta alla mobilitazione studentesca attraverso un'assemblea di facoltà che a breve si porterà avanti. Al momento queste sono le informazioni che abbiamo. Sappiamo anche dirvi che l'Orientale, la facoltà orientale, è ancora in occupazione e che proprio in questi momenti stanno anche loro facendo un'assemblea di facoltà per discutere appunto il seguito di questa mobilitazione studentesca in questi giorni a Napoli. D'accordo, allora risentirci presto per qualsiasi aggiornamento. Sicuramente, grazie a voi. Ciao. Ciao a tutti, ciao.